Venimus adorare, venimus adorare, venimus adorare, venimus adorare. In una notte di che non potrò mai più scordare, immaginare la tua presenza tra di noi come l'esempio, un foglio bianco, una penna, poi il silenzio. Qui come fosse ieri, e un Emanuele. Sì, oltre i miei pensieri, e un Emanuele. Noi forse anche più veri, senza più misteri. Siamo anime, siamo tramite di un'altra umanità. Una canzone, un'esigenza. Capire se la musica è arte oppure scienza. Se è vero che è insieme di notte a fare una canzone. Se bastano tre parole. Sole, cuore, amore. Una canzone, un'esigenza. Dire a tutti quanti che esiste una speranza. Che dammi tre parole, non curano il dolore. Che l'unica certezza è l'esigenza dell'amore. Tu, tutto intorno è vuoto. Se interrompi il moto, ma le dici in fretta questa tua disdetta, rendi facile ciò che è agile di questa libertà. Siamo anime, siamo tramite di un'altra umanità. Una canzone, un'esigenza. Capire se la musica è arte oppure scienza. Se è vero che è un insieme di note a fare una canzone. Se bastano tre parole. Una canzone, un'esigenza. Dire a tutti quanti che esiste una speranza. Che dammi tre parole, non bastano al dottore. Perché l'unica certezza è l'esigenza dell'amore. Non c'è niente di buono o di cattivo. Dipende da come lo dico. Non c'è nessuna legge nell'amore. Non c'è, non c'è, non c'è risposta a queste mie parole. Una canzone, un'esigenza. Una canzone, un'esigenza. Una canzone, un'esigenza. Un'esigenza. In ogni storia c'è un inizio, c'è una fine. La fine non dell'esigenza, nemmeno della scienza, ma della canzone che mi lega a Caparezza. Un foglio all'inizio bianco, in quella notte scritto no no no no, non da me ma da qualcun altro, per caso trovato, buttato, accartocciato, una poesia, magari la follia.